Rai Fiction e Radio 2 presentano Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua di Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Regia di Alberto Sironi. Nona puntata. Ora mi metto a tambaseare, pensò Montalbano avvicinandosi a casa. Tambaseare era un verbo che gli piaceva. Significava mettersi a girellare di stanza in stanza senza uno scopo preciso, anzi occupandosi di cose futili. Invece, appena entrato in casa, inciampò in due grandi casse di cartone su cui era stampato a grandi lettere Montalbano Vini. Si ricordò allora della telefonata che il padre gli aveva fatto qualche giorno prima e aprì la busta attaccata alla cassa con un nastro adesivo. Lo faccio portare. Quest'anno è buono il vino. Dottore Montalbano, sono Preste Filippo Arcangelo, socio dell'azienda vinicola di suo padre. E mi piange il cuore darle questa brutta notizia. Lei deve sapere che suo padre sta male. Io l'ho fatto visitare mio figlio è un medico bravo e l'ha visitato, dopodiché l'abbiamo portato all'ospedale. Hanno fatto tutte le analisi e il risultato è stato che suo padre ha i polmoni un male incurabile. Mi dispiace darle questa brutta notizia, mi dispiace. E le ripeto, suo padre, mi crede, non voleva che le scrivesse questa lettera, non voleva, aveva seriamente proibito. Se lei vuole vedere suo padre ancora vivo, venga. La supplico, la prego. La saluto. Preste Filippo Arcangelo. Non si aspettava quelle parole. Le lesse e le rilesse e fu preso da un dolore sordo, aggravato dall'angoscia per quello che era dovere suo di fare: chinarsi sul letto, baciare la fronte di suo padre, sentire il suo alito secco di morente, tagliarlo negli occhi, dirgli qualche parola di conforto. Ne avrebbe avuto la forza? La cena a casa del questore era per Montalbano un rito che si ripeteva almeno una volta ogni 15 giorni. Al commissario il questore e sua moglie erano simpatici e quella simpatia da parte dei coniugi era ampiamente ricambiata. Il questore era un uomo fine, colto e riservato, quasi una figura d'altri tempi. Commissario, lei stasera non ha toccato quasi niente. Ma come no, signore? I suoi polipetti erano squisiti, non vedo. Va bene, le credo. Vi lascio soli, così continuate a parlare dei vostri morti ammazzati. Con permesso. Allora, Montalbano, mi ero riproposto per stasera di trovare il modo di rimproverarla per non aver ancora concluso la faccenda. E da quello che ho potuto capire finora, fra spazzini onesti e scandinavi di facili costumi, avrei fatto bene. Le cose sono molto più complicate, signor questore. Azzardiamo un'ipotesi. Nel tardo pomeriggio di domenica, verso le 7, Luparello avverte la moglie che rientrerà tardi per una riunione politica. In realtà si reca nella sua casetta di Capomassaria per un convegno amoroso. E con chi? Non glielo dico, tanto ci arriverà lo stesso. Durante il rapporto sessuale, subito dopo, Luparello muore. La persona che era con lui perde la testa, si agita scompostamente, tanto che perde anche la collana che aveva indosso e non se ne accorge. La Siostromo, dunque. A questa persona viene in mente di telefonare all'avvocato Rizzo per chiedere aiuto. Rizzo consiglia di abbandonare immediatamente la casa, penserà a tutto lui. Tranquillizzata, questa persona esce di scena. Come sarebbe, non è stata una donna a portare Luparello alla Mannara? Sì e no. Vada avanti. Rizzo si precipita alla casetta di Capomasseria, riveste in fretta e furia il cadavere perché lo vuole portare via di là. Lo vuole far trovare in un posto meno compromettente. Poi però vede per terra la collana della Siostro e capisce che quello potrebbe essere il suo giorno fortunato. Così può ricattare Cardamone e diventare il numero uno del partito. Ma prima deve evitare che quelli della corrente politica di Luparello si gettino sulla sua eredità e intuisce che per fare questo bisogna che l'ingegnere venga totalmente infangato, spottanato. E così gli viene la bella pensata di farlo ritrovare alla Mannara E dato che c'è, perché non far credere che la donna che era lì con lui sia proprio Ingrid Sjostrom, la nuora di Cardamone? Certo, se la messa in scena funziona, anche Cardamone è nelle sue mani. Infatti. E allora che fa il nostro buon Rizzo? Telefona a due suoi uomini, uno dei due si chiama Angelo Nicotra, meglio conosciuto negli ambienti degli omosessuali come Marilyn. Quando arrivano alla villa, Rizzo fa travestire Marilyn da donna, gli fa indossare la collana e gli dice di portare il corpo di Luparello alla Mannara, attraverso il greto asciutto del fiume. E cosa voleva ottenere? Una prova in più contro la Sjostrom, che è pilota di rally e quelle strade sa come farle. Si rende conto che sta giocando con materiale esplosivo? Non si preoccupi, signor questore, tutto finisce in una bolla di sapone. Allora, Marilyn arriva alla Mannara, mima l'amplesso con l'ingegnere Luparello, poi scende dalla macchina e si allontana. All'altezza della vecchia fabbrica, lascia la collana in un cespuglio e poi getta la borsa della Sjostrom con le iniziali strappate al di là di un muro. Una prova di riserva nel caso in cui qualcuno si metta in tasca la collana. E all'alba l'avvocato Rizzo telefona a Cardamone e comincia a giocarsi le sue carte. Eh già, e comincia a giocarsi anche la vita. E questo è un altro discorso. Beh, devo ammettere che questo è stato un altro esercizio di intelligenza. Ma a dirla brutalmente, sotto il suo ragionamento c'è il vuoto. Lei non ha nessuna prova, tutto può essere letto in un altro modo. Un bravo avvocato smonterebbe le sue illazioni senza stare troppo a sudare. Lo so. E allora che intende fare? Domani telefono al giudice Lobianco e gli dico che se vuole archiviare per me non ci sono problemi. Ah, signor questore, un'ultima cosa. Io, col suo permesso, mi vorrei prendere un giorno di riposo. Certo. C'è qualche problema? No, no, niente, sono solo stanco. Dopo 4 ore filate di macchina, alle porte di Valmontana, trovò un cartello che indicava la via da seguire per la clinica Villa Annunziata, dove era ricoverato suo padre. Sistemò l'auto nell'ordinato parcheggio e trasse. Il cuore se lo sentiva battere proprio sotto il pomo d'Adamo. Venga, venga, se accomodas. Per favore, aspetti qua un minuto. Signor Montalbano? Sì. Prego, si accomodi. Mi spiace veramente doverle dire che suo padre è deceduto serenamente questa notte. Tutti gli uomini del commissariato di Vigata, Fazio, Gallo, Galluzzo, Catarella, tutti in divisa d'ordinanza erano in cimitero per il funerale del padre di Montalbano, anch'essi commossi e partecipi del dolore del commissario. Soltanto al termine della cerimonia, Montalbano vide arrivare Livia. Mi dispiace, non sono arrivata in tempo. Neanche io sono arrivato in tempo. È morto solo. Livia lo stringeva a sé e lo accarezzava per confortarlo, mentre tutti, uno a uno, aspettavano il loro turno per salutarlo e abbracciarlo. Per primo, il vecchio e fedele amico del padre, Presti Filippo Arcangelo. Signor commissario, mi dispiace, signor commissario, forse quella lettera Lei ce la doveva scoprire prima. Suo papà me l'ha proibito, non volevo che lei si picchiasse di dispiacere e pensiero. Mi dispiace, mi perdoni. Oh. Ecco, questo è l'orologio se suo papà me l'ha lasciato per lei. E lui è contento se lei lo porta a posto suo, suo papà. Sì, il regalo di suo papà. Mi perdonassi, signor commissario. Mi perdonassi. Grazie. Io ho bisogno di starmene solo per un paio di giorni. Ma stapperò pure telefono. Posso fidarmi? Certo, commissario, non si preoccupi, penso a tutto io. Non ci sono novità? No, niente, ordinaria amministrazione. Ha telefonato la signora Luparello un paio di volte. Cercava di lei. E per Giorgio, il nipote. Perché? Che è successo? È sparito un'altra volta. E io dal canto mio ho allertato la mobile e ho dato una descrizione del ragazzo. Hai fatto bene. Oh, mi raccomando, non mi cercate per nessun motivo. Ci vediamo tra un paio di giorni. E così Montalbano, insieme a Lilia, si allontanò a piedi dal cimitero, traendo dall'abbraccio e dall'amore della sua donna un senso di provvisoria serenità. Il commissario Montalbano, La forma dell'acqua, con Luca Zingaretti, commissario Montalbano, e Michele Gammino, voce narrante, e con Pietro Biondi, Claudia Catani, Peppino Mazzotta. Musiche originali di Franco Piersanti, realizzazione radiofonica di Roberto Rossi. La forma dell'acqua di Andrea Camilleri è pubblicato da Sellerio. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.